Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Si va a chiudere questo 2012 anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, infatti questo è l'ultimo appuntamento prima delle vacanze natalizie ed è un anno che si chiude con una bella novità. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, i navigatori, i soci, insomma chi già vi conosce, vi frequenta online, già se ne sarà accorto, lo diciamo perché insomma è ufficiale, finalmente online la nuova versione del sito associazionedifesaconsumatori.it. Sì, grazie Mirko, ti dico ci abbiamo lavorato 6 mesi, abbiamo concentrato tutti gli sforzi per cercare di riuscire a metterlo in linea prima di Natale perché abbiamo voluto rendere adeguato ed adattarlo alle esigenze sempre più numerose e alle richieste il nuovo sito che l'Adico mette a disposizione che i consumatori già da oggi possono praticamente o da ieri consultare e sicuramente troveranno moltissime ed importanti novità che riguardano poi tutte le problematiche che ogni giorno i consumatori hanno a che fare per vario genere. Ecco, il sito si è modernizzato graficamente come è giusto che sia, evidentemente ci sono i temi consueti, le segnalazioni, le indagini, le problematiche. Quali sono le novità principali che troviamo? Allora, innanzitutto le novità principali sono diverse. Cominciamo dalla prima, che l'Adico si è dotata di una carta dei servizi che il consumatore ha l'obbligo di dover prendere visione quando ci consulta, dove vengono scritte esattamente quelli che sono i servizi che l'Adico eroga al proprio socio e quelli che sono gli aspetti con cui questi servizi vengono regolamentati e questo in un'ottica di migliorare quello che è il nostro rapporto con i consumatori ed essere anche trasparenti in tutte quelle che possono essere le sfaccettature di un rapporto che regola un socio con un'associazione. Il secondo è quest'area che come hai detto tu un'area di moderazione dove i consumatori possono pubblicare le proprie disavventure ed è una specie di una sorta di forum nel quale gli utenti potranno raccontare tutti i loro problemi e consultare le segnalazioni già presenti e sentirsi parte vera di una comunità. Abbiamo potenziato poi la pagina Facebook perché oggi è necessario anche riconoscerci in questi forum come Facebook e poi abbiamo attivato una serie di sportelli che sono quelli che in quest'ultimo periodo l'Adico è stata maggiormente interessata su tutta una serie di attività che hanno un po' anche diversificato quelle che sono un po' comunemente le nostre attività principali. Ecco, un po' come succede in certi uffici, no? Uno se ha bisogno di un certo tipo di consulenza prende quando entra insomma il numerino che corrisponde ad una certa fila, ad un certo sportello. Voi ne avete 5 sportelli tematici che sono gli sfratti, il condominio, i risarcimenti, le vacanze, la patente, l'alcol, insomma la viabilità e poi i diritti e debiti e crediti. Sì, perché questi? Perché i problemi di condominio di sfratti sono dei problemi molto frequenti, soprattutto oggi, in virtù di quelle che sono le difficoltà che le famiglie fanno fronte e sempre più difficilmente riescono a onorare sia i debiti, ma sia i debiti nei confronti degli amministratori inquilini o anche le problematiche che le persone si trovano normalmente nella normale vita quotidiana ad avere all'interno o in un contesto di una comunità come può essere anche un condominio. C'è il risarcimento perché un incidente stradale, domestico o è vittima di un episodio di mala sanità, che abbiamo la possibilità di offrire un pacchetto tutto incluso senza che il socio possa non possa tirar fuori neanche un euro e vedersi salvaguardati i propri diritti se questi sono stati lesi. C'è l'obiettivo vacanza informata, c'è poi lo sportello vacanza informata che offriamo tutta una serie di attività e di assistenza nel caso di servizi o richieste di risarcimento, controversie con compagnie aeree, di agenzie di viaggio o affittuari di alloggi privati. Alcol e patente, perché le persone sempre più si trovano coinvolte in questi problemi con il tiro di patente e quant'altro e abbiamo scoperto, cioè non scoperto, ma abbiamo attivato un servizio che permette di convertire la pena pecuniaria che non è altro che una pena penale in lavori socialmente utili, questo quindi anche per cercare di andare incontro a quelli che sono i costi di queste sanzioni, ma anche quelle che potrebbe può essere una conversione di una pena penale che può essere risolta con un lavoro socialmente utile, di cui l'Adico ha curato molti casi in quest'ultimo periodo, e debiti e crediti, perché sappiamo che oggi sempre più persone hanno difficoltà a far fronte a quelli che sono i pagamenti, le rate, sono vittime di prestiti finanziari o non ce la fanno a pagare il mutuo o hanno tanti altri problemi come iscrizione al ruolo, CRIF e quant'altro. Poi per ultimo rimangono sempre attivi quelli che sono tutti gli altri servizi che l'Adico comunemente ha sempre dato e sempre garantisce per qualsiasi altro tipo di problema. Ecco, ricordiamo quanti soci avete, quanti contatti in giro per l'Italia, perché è vero che voi siete a Mestre, però insomma i contatti sono in tutta la penisola. Beh, è incredibile i numeri che voglio darti. Ecco, abbiamo 2500 articoli innanzitutto nel sito, 16.000 commenti, 20 tematiche, oltre 11.000 persone che ricevono quotidianamente la newsletter. Abbiamo un dato che siamo anche soddisfatti e nello stesso tempo sorpresi, dove non sono solamente le 50.000 visite al mese di cui l'Adico riceve nel sito, ma di questi 50.000 16% a Roma, 13% Milano, 5% Torino, Napoli, Catania, Bari, Firenze 4% e solo Venezia solo il 6%, tra virgolette. Ecco, quindi perché poi i temi, anche quelli che trattiamo in questa nostra rubrica radiofonica, sono un po' trasversali, insomma, riguardano tutti, non necessariamente sono regionali. E poi c'è una sezione video, giusto per farvi anche un po' pubblicità, perché evidentemente le notizie poi assumono anche questo rilievo mediatico. Sempre più spesso, insomma, su Striscia la Notizia ti abbiamo visto sulla 7, sulla Rai, insomma, sei un po' ovunque. Beh, grazie Mirko, io devo dire che se un'associazione riesce a fare bene il suo lavoro è sempre merito di chi fa il tuo lavoro, perché se non abbiamo i mezzi di informazione che non sono altro fondamentalmente i media, sicuramente il nostro raggio d'azione e la nostra efficacia sicuramente sarebbe notevolmente ridimensionata e meno efficace. Quindi noi crediamo e puntiamo a sviluppare questa cosa qui, consapevoli e nella speranza che le persone ci ascoltino e che se abbiano dei problemi possono trovare risposte scrivendoci o telefonandoci, permettendo che l'Adico anche nel periodo delle feste di Natale è aperta tutti i giorni, compreso il 24 di dicembre e il 31 di dicembre. Ecco, e allora speriamo che non dobbiate lavorare, cioè che nessuno abbia bisogno, ma insomma ogni giorno purtroppo possono capitare dei problemi. Noi appunto con la rubrica ufficialmente ci fermiamo nelle 2 settimane, ma rimaniamo reciprocamente a disposizione dovesse esserci dei casi clamorosi da trattare. Allora buon Natale e buon anno a tutta l'Adico e ci risentiamo dopo l'Epifania. Io faccio gli auguri alla redazione di Blu Radio Veneto e a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.